遇见最美的自己。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 听众朋友，您现在正在收听到的是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场节目中，为大家播放的是维瓦尔第的歌剧《安德洛姆达》《里贝尔塔》，克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、图奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面就请大家欣赏。 prego battuto delle lire di suore il fiero orgoglio io non cerco gli applausi e non li curo basta che le superbe di Andromeda che vive la difesa il mio amor pianga delose disdegnose e confuse mirino il seno a tetti lanciato in duro scoglio il ministro crudel della vendetta e più dunque sospetta sciolgansi questi lacci della bella innocente e ravviso ogni ninfa ogni pastore di perse o fortunato il braccio invitto l'amoroso cuore Signor, ira del fato, fiaccasti col valor della tua destra, opportuno soccorso al comune dolor, silenzio impose. Io non creder già più su questi campi, lieto condur la greggia, né rallegrar col campo il regio armento. Tua merce mi sembra men grave il peso di canuta etade e parmi che risorga in me vivace la già perduta e sospirata pace in queste sponde pastori canti nel gadio che non è sapere vino su queste sponde e miei cuori Thank you. Thank you. cor la sua mecene ma sa vivirsi o sa che di mia libertà questi che il cielo mi lascia tu mercè miseria avanzi rendono la mia vita e dello stesso morir meno capita nulla dunque tu prezzi del mio provido amor le prove il merito gratitudine e vieta e che sia mai che tenga nuove insidie alla mia pace una fiamma vivace che dall'eso gentil nel cor m'accese più misera mi fa di quel che fu spietata fagna lui che immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore o non lo sa Oh, ingrata, se potesti obliare si presto il mio amor, la mia fede, il tuo dovere. Oh, non più, non più mai sarà che io ti rivegga. Il ciel che giusto punirà l'error tuo. Io misero e tradito, abbandonato amante, fuggirò questo cielo, lascerò queste arene, lasso che fia di me, che fia se io parto. Vedere nella fronte, voi che la sappi almeno, il mio fiero tormento, che l'amo ancora, e poi m'andrò contento. Oh, infedele, uscita appena dalle mani di Cloto, con gli occhi e lingua, parlo sì, che potea disperar ogni amante. Andromeda infedele, terzo d'inganni, teste mi disse che da riso, fuoco. Ma credi, se già credi, la sua sposa esser dei, e questi fuori i giuramenti miei. Si rinforzi in quella sera di quel bene, thank you.

Thank you.

che mi giova a dirmi sento di sdegno e di furore. Già te lo dissi ancora, non voglio amore. Viver solo, viver solo.